Sono una donna, non sono una santa. Non tentarmi, non sono una santa. Ah. Non mi portare nel bosco di sera. Ho paura nel bosco di sera. Fra 3 mesi, te lo prometto, che il mio amore tu l'avrai. Ti assicuro, non è un dispetto. Ogni cosa ha suo tempo, lo sai. Markovac, Malakrsa, Lajkovac, Čaje, Čuđe, Paljara!